24 ore. Serve una soluzione drastica per i rifiuti. Vertice da Berlusconi a Terzigno, a fuoco ancora il tricolore. Iniziato il G20, Geithner, bisogna agire sui cambi. Olanda, collisione tra nave e traghetto, numerosi passeggeri sono finiti nell'acqua gelida. L'Italia a due ruote ributta la nuova bicicletta montante Maserati. Buona giornata dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Rifiuti dunque sempre in primo piano. Non solo c'è il fronte campano delle proteste che va avanti, oggi anche la politica discuterà a Roma della situazione. Della politica parleremo dopo. Adesso andiamo subito a Napoli dal nostro Paolo Picone. Paolo. Sì, buongiorno. Si è appena conclusa la conferenza stampa del sindaco di Napoli Iervolino, che ha tenuto a ribadire che le cause dell'emergenza non dipendono dalla sua amministrazione, ma che l'emergenza non è mai finita e che quindi non sta in piedi la dichiarazione del presidente Berlusconi di alcuni mesi fa, in cui diceva che l'emergenza si era conclusa. E poi si è detta delusa il sindaco di Napoli della mancata solidarietà delle province della Campania. Intanto sul fronte di Terzigno proseguono gli incidenti e anche la tensione è molto alta. Poco fa una persona ha bruciato vicino ad una pianta d'ulivo una bandiera, un tricolore, così come era accaduto ieri a Bosco Reale. Lì la tensione è sempre molto molto alta. Per il momento da Napoli è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Paolo Picone. Anche la Commissione europea è intervenuta sull'emergenza rifiuti, situazione seria, ha detto, l'Italia si muova. E come detto, di rifiuti si sta parlando a Roma, se ne sta occupando il governo con un vertice al termine del Consiglio dei Ministri. Andrea Viale in diretta. Andrea. Sì, andiamo avanti con il piano rifiuti senza esitazioni e senza farci influenzare da nulla. Sarebbe questa l'indicazione arrivata dal Premier Berlusconi nel corso del Consiglio dei Ministri che, come dicevi, ha preceduto questo vertice straordinario sui fatti di Terzigno. Berlusconi avrebbe anche detto, secondo indiscrezione, che la responsabilità di quanto sta succedendo è delle amministrazioni locali campane che non sono in grado o non vogliono in alcuni casi applicare le misure definite da governo e regione. Nel corso del Consiglio dei Ministri c'è stato anche sui fatti di Terzigno una relazione del capo della Protezione Civile. C'è grande preoccupazione da parte dell'esecutivo, ha confermato il ministro Ronchi lasciando Palazzo Chigi, dove appunto è ancora in corso il vertice convocato ieri d'urgenza. Oltre a Berlusconi e Bertolaso sono presenti tutti i ministri interessati dalla nuova emergenza rifiuti nel napoletano, i ministri dell'interno, dell'economia, dell'ambiente, che sono Maroni, Tremonti e Prestigiacomo. C'è anche il governatore della Campania Caldoro. Al momento non sappiamo se nel corso della riunione siano state già adottate definite misure concrete per fronteggiare quanto sta succedendo. Naturalmente ve ne daremo conto nelle prossime edizioni di GR24. Anna-Rita, direi che per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Grazie Andrea. E come avete sentito, il Consiglio dei Ministri è iniziato intorno alle 10 e si è concluso. A Vincenzo Miglietta chiediamo di cosa si è discusso. Vincenzo. Sì, buongiorno. Manca ancora la conferma ufficiale, ma non dovrebbe essere slittata, dicevo, la presentazione dei provvedimenti su immigrazione e sicurezza. Era stato lo stesso Presidente del Consiglio, lo ricordiamo, ad annunciare per oggi il varo di nuove misure che conterrebbero tra l'altro nuove norme per l'allontanamento dei comunitari, contro la prostituzione su strada, l'accattonaggio e la violenza negli stadi. Anche oggi non si è parlato della nomina alla presidenza della Consob, mentre il Ministro dell'Agricoltura Galan ha fatto il punto sul nodo delle quote latte. Non ci saranno altre proroghe al congelamento delle multe, ha detto Galan. Secondo indiscrezioni, i temi di attualità politica avrebbero trovato posto a margine della riunione in alcuni faccia a faccia tra ministri. Si sarebbe commentata l'intervista rilasciata da Berlusconi alla Frankfurt Allgemeine Zeitung. Il Premier, parlando di possibili elezioni anticipate, ha annunciato che sarà ancora lui il candidato leader, mentre Suffini ha spiegato: vedremo se il programma del partito di Fini sarà tale da consentire di renderlo parte integrante della coalizione che si presenterà alle urne. Sulla giustizia Berlusconi ha quindi affermato che nella magistratura abbiamo una corrente che agisce in modo eversivo cercando di procedere contro chi è stato eletto legalmente dal popolo. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. La politica eviti di rinchiudersi nel localismo e nella difesa di interessi corporativi e sappia invece riscoprire la dimensione dell'interesse generale. È quanto auspica il capo dello Stato Napolitano in un messaggio inviato al primo congresso fondativo di Sinistra e Libertà a Firenze. In corso l'intervento di Nicky Vendola. Sentiamo uno stralcio. C'è un 11 settembre e ci sono delle Twin Towers che abbiamo frequentato poco. Non c'è soltanto quello che abbiamo visto mille volte in quei fotogrammi terribili in TV, ma c'è anche l'11 settembre, le Twin Towers dei poveri, c'è un 11 settembre, per esempio, che ogni giorno si è determinato in questo mare Mediterraneo meraviglioso. La pagina economica adesso con il G20 Finanza che si è aperto ufficialmente in Corea del Sud, al centro delle discussioni le divergenze sui tassi di cambio e le varie soluzioni per arrivare ad un sistema bilanciato. Il G20 va alla caccia di una difficile tregua nella guerra delle valute. Ministri e governatori dei grandi paesi industriali e delle nuove potenze economiche emergenti sono riuniti in queste ore a Gyeongju, l'antica capitale della Corea, per calmare le turbolenze che da settimane agitano i mercati dei cambi. L'obiettivo da raggiungere entro domani sera è un compromesso che impegni tutti a non utilizzare la svalutazione competitiva della propria moneta per favorire le esportazioni a danno degli altri. La ripresa resta fragile soprattutto negli Stati Uniti e in Europa e la guerra delle valute può bloccarla del tutto. Nel mirino è stata fino a questo momento la Cina, accusata di mantenere sottovalutato lo yuan, ma ora anche gli Stati Uniti stanno spingendo al ribasso il dollaro. Ne fanno le spese la competitività dell'area dell'euro e dei paesi emergenti come il Brasile, sottoposti a una rivalutazione eccessiva. Si rischia un tutti contro tutti e una soluzione va trovata prima della riapertura dei mercati lunedì mattina. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gyeongju, Corea del Sud. Migliora l'accesso al credito per le piccole e medie imprese dell'area euro, lo rileva la Banca Centrale Europea sulla base della sua ultima indagine mirata che ha coinvolto 5.312 PMI dell'Unione Monetaria. Ne risulta che un 12% di aziende riferisce di un miglioramento sulle condizioni di accesso al credito e soprattutto cala in maniera drastica la quota di PMI che all'opposto riferisce di peggioramenti. E in Italia, riflettori come di consueto sulle aziende che rialzano la testa dopo la crisi. Ogni giorno vi raccontiamo le loro storie. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Stiamo osservando una crescita più 70%. Riccardo Self è amministratore delegato e direttore generale di Once, azienda di Udine. Ci occupiamo di produzione di prototipi piccole serie, materiale plastico e metallico. Per Once il 2009 non è stato un anno facile. È stato un anno critico con un calo di fatturati e calo di margini, meno 30-35%. La svolta è arrivata all'inizio di quest'anno, quando l'azienda, che fattura 2 milioni di euro e ha 15 dipendenti, è riuscita a recuperare totalmente il calo di fatturato. La chiave di svolta è ed essere riusciti a fare rete con altre piccole aziende. I punti su cui abbiamo lavorato sono stati un'analisi più corretta del mercato, un rafforzamento della nostra struttura commerciale e una definizione più corretta del prodotto servizio e riduzione assoluta degli sprechi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di dati adesso sul fronte consumi, sono ancora preoccupanti. I consumi ristagnano, fermi ad agosto e fermi nei primi 8 mesi dell'anno. Il valore delle vendite al dettaglio, dice l'Istat, è addirittura sceso nel settore alimentare, meno 0,5%. Negli altri comparti le variazioni sono positive. Il periodo estivo ha fatto bene ai prodotti fotografici, ma anche a scarpe e mobili. Arretrano gli elettrodomestici. La grande distribuzione registra un aumento del volume d'affari, più 0,7%. Le piccole imprese vedono in 8 mesi un calo dello 0,4%. Intanto Confcommercio e Confesercenti propongono una data unica per l'inizio dei saldi. A Mauro Bussoni, vice direttore generale di Confesercenti, chiediamo quali sarebbero i vantaggi. Favorire un'informazione precisa a tutti i consumatori, dall'altra permette in particolare ai piccoli imprenditori di fruire di una promozione legata alla data unica che altrimenti non potrebbero avere. Giovanni Braco da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il gruppo Fiat ha riacquistato il 5% della Ferrari detenuto dal fondo arabo Mubadala per un valore di 122 milioni di euro. Risulta dal fascicolo della trimestrale del Lingotto consultato dall'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor, da cui emerge che l'operazione è avvenuta nel corso del terzo trimestre. Dall'estero adesso in Olanda, dove proseguono le ricerche di un disperso in un canale tra Amsterdam ed Utrecht, dove una nave cargo è entrata in collisione con un traghetto usato per il trasporto dei pedoni nel canale. Alcuni passeggeri sono caduti nelle acque gelide e ancora non c'è traccia di una persona. Ci spostiamo ad Haiti, dove è ancora emergenza, questa volta per il colera. L'attenzione dei media su Haiti non è più quella di 9 mesi fa, eppure l'emergenza sull'isola non è mai cessata. Dopo il sisma è arrivata, come si temeva, l'epidemia di colera. Ieri le autorità sanitarie nazionali hanno denunciato la morte di 135 persone in diverse città, dovuta probabilmente alla cattiva qualità dell'acqua potabile. Le vittime vanno ad aggiungersi ai 250.000 morti per il terremoto. Diverse centinaia di persone sono state ricoverate e i casi segnalati sono almeno 1.500. Il governo ha convocato una riunione urgente con le autorità sanitarie, mentre un esperto delle Nazioni Unite, Walter Kaelin, ha denunciato in un rapporto la profonda crisi umanitaria che il paese sta attraversando. 1.300.000 persone, stando alle stime, ha detto, vivono tuttora in campi provvisori ed hanno bisogno di tutto. Cristina Balotelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora, il giorno prima della presentazione a Torino domani del nuovo Giro d'Italia, parliamo di biciclette e parliamo di un modello presentato al Salone dell'Auto di Parigi che è un vero gioiellino del Made in Italy. Nato dalla collaborazione tra la ciclimontante, la Maserati, la Single Speed è un singolare incrocio tra passato, stile anni 30, e futuro per la qualità dei materiali. La responsabile del settore cicli, Antonella Nigro, al microfono di Dario Ceccarelli. Questa bellissima bicicletta single speed montante Maserati, in stile molto heritage, richiama gli anni 30, richiama la Maserati 8 CTF che fu la macchina, la prima Maserati che vinse il Giro di Indianapolis. Infatti questa bici viene presentata in soli 200 esemplari proprio perché i giri di Indianapolis erano 200, quindi un'edizione limitata realizzata interamente in Italia, telaio in acciaio che richiama i particolari della macchina. Macchina, sia nel colore, quindi il colore utilizzato è la riproduzione fedele del colore della carrozzeria della Maserati 8 CTF, così come gli inserti in pelle che richiamano tutta la selleria adottata allora sempre per la Maserati 8 CTF. 200 modelli, quindi proprio per gli appassionatissimi. Sì, è un oggetto sicuramente da collezione, ovviamente è una bicicletta vista in chiave moderna, nel senso che le single speed, seppur presentano questa linea heritage, sono molto di attualità. Made in Italy. Puntiamo molto sul Made in Italy, in quanto crediamo che appunto il Made in Italy sia una garanzia di eccellenza di produzione. Senta, una curiosità che gli appassionati ci chiederanno di sicuro, che prezzo ha? Questa bici ha un costo di 3.000 euro, sono bici da collezione quindi, e devo dire veramente che non ci siamo risparmiati assolutamente nella scelta dei materiali utilizzati, diciamo il top delle materie prime. Serve una soluzione drastica per i rifiuti, chiede l'Europa. Vertice in corso da Berlusconi a Terzigno, a fuoco ancora il tricolore. Iniziato il G20 in Corea, Geithner, bisogna agire sui cambi. Carceri, boom del sovraffollamento, elevato anche il numero di suicidi. Polemiche Rai superate dagli ascolti record, oltre 6 milioni davanti alla TV per anno zero con ospite Saviano. Sin qui i nostri titoli, tra pochissimo parleremo della cronaca, delle condizioni carcerarie, ma c'è un'ultima ora che riguarda il mondo del lavoro che vi riferiamo subito. Il governo prorogherà la cassa integrazione in deroga e gli altri strumenti di ammortizzazione sociale per tutto il 2011. Lo ha annunciato proprio pochi minuti fa il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, chiarendo che ci sarà un provvedimento a fine anno in questa direzione. La cronaca adesso, a partire dall'emergenza nelle carceri italiane, preoccupa il sovraffollamento ma anche le morti. 113 nel 2009, di cui 72 suicidi, 18 per cause ancora da accertare, 22 per malattia ed 1 per omicidio. Oggi è stato presentato il 7° rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dell'Associazione Antigone. Alessandra Schepisi ha intervistato il presidente Patrizio Gonnella. Anche quest'anno il problema numero uno è il sovraffollamento delle carceri o c'è un'inversione di tendenza? No, nel senso che i tassi di crescita sono elevatissimi, sono stati diciamo pericolosamente alti nei primi mesi dell'anno. Devo dire che negli ultimi 3 mesi, e questo è un dato inequivocabile, invece c'è stata una sorta di rallentamento della crescita. Noi abbiamo segnalazioni che ci arrivano dalle periferie d'Italia che ci sono state indicazioni di non procedere agli arresti, e per cui negli ultimi tre mesi, parliamo degli ultimi tre mesi, il sovraffollamento si è fermato. Un'altra anomalia italiana è la percentuale di detenuti in attesa di giudizio. È una delle tre anomalie italiane. Questa è la prima. La seconda è determinata da una presenza di tossicodipendenti doppia rispetto alla media europea. La terza, una presenza di stranieri non doppia ma quasi doppia rispetto alla media europea. Il delitto di Sara Scazzi sul fronte delle indagini, giornata interlocutoria. Cosima Serrano, madre di Sabrina e moglie di Michele Misseri, stamani ha ricevuto la visita del sindaco della cittadina di Avetrana. Gli ha ribadito di credere nell'innocenza della figlia Sabrina ed ha sottolineato che il delitto è stato compiuto dal marito Michele, che ha perso la testa. A 9 anni non può percorrere da solo la strada scuola-casa, anche se si tratta solo di 200 metri. Lo ha stabilito il Tribunale di Trieste perché quella strada potrebbe essere pericolosa. A rivolgersi al giudice la dirigente della scuola primaria di Buio, in provincia di Udine, che per legge è responsabile dell'incolumità degli alunni anche nel tragitto che li riporta a casa. Ma quanto sono pericolosi quei 200 metri? Maria Piera Ceci lo ha chiesto al sindaco di Buio, Luca Marcuzzo. Stiamo parlando di una strada comunale che ovviamente è fuori dal centro e che, come il 90% delle strade comunali, non è dotata di marciapiede, magari non è dotata di illuminazione sufficiente, non ha le infrastrutture necessarie per essere catalogata secondo legge come strada sicura. Lei ha dei figli? Sì, sicuro, ne ho due piccoli, uno di 7 e una di 4 anni, per cui diciamo che la situazione la sento anch'io, però giustamente anche quello che dice la madre è ovvio, è logico che se continuiamo a proteggere con una esasperazione tale i nostri bambini, questi non cresceranno mai. Quindi, insomma, lei ce lo manderebbe suo figlio di 7 anni da solo su quella strada? Sicuramente sì. E intanto proprio la prossima settimana parte a Milano l'iniziativa Siamo Nati per Camminare. L'associazione Genitori Antismog promuove per il secondo anno il progetto di educazione alla mobilità sostenibile Siamo Nati per Camminare. La prossima settimana, dal 25 al 29 ottobre, 5.700 bambini di 29 delle 210 scuole primarie di Milano andranno a scuola a piedi o con un altro mezzo sostenibile, chi in bici, chi in tram, chi pattinando. Ciascun bambino parteciperà alla raccolta punti della classe e alla fine della settimana racconterà la propria esperienza con un pensiero e un disegno su una cartolina indirizzata ai signori milanesi, e a novembre verranno premiati la classe più sensibile e il miglior disegno. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Test antidroga a chi lavora nella TV pubblica. Il sottosegretario Giovanardi insiste nella sua proposta e questo era il tema del nostro sondaggio di oggi. Vi abbiamo chiesto che ne pensate di questi test ed il risultato è che vi siete divisi esattamente a metà. Il 51% di voi si è detto favorevole comunque al test. Sentiamo il parere di Giovanardi. Il discorso lo estendo anche ai politici e ai parlamentari, cioè a coloro che hanno delle responsabilità, soprattutto coloro che vengono retribuiti dal pubblico. Io ho parlato sempre di denaro pubblico, mi sono domandato il perché un camionista o un carrellista debba fare questo tipo di verifica, mentre invece persone che vengono pagate dal pubblico qualche volta, in qualche caso anche con cifre enormi, non devono dimostrare che non contribuiscono col loro comportamento al fatto di distruggere il mondo, di destabilizzare la Colombia, di agevolare la mafia, la 'ndrangheta, la camorra. E sul fronte ascolti, sempre parlando di TV, nuova vittoria ieri per Michele Santoro. La puntata di Anno Zero, che ha ospitato un lungo intervento più riprese di Roberto Saviano, ha avuto oltre 6 milioni di telespettatori e ha sfiorato il 23% di share, aggiudicandosi la serata. Ultimo giorno oggi di SMAU, la fiera della tecnologia per aziende e professionisti alla Fiera di Milano. Verranno premiate le start-up più innovative che ieri hanno incontrato i potenziali investitori in un curioso appuntamento. Tempo scaduto, fate il cambio per favore. 3 minuti per presentare la propria idea di business, da una parte un futuro imprenditore, magari con un passato nel mondo della ricerca, dall'altro un potenziale investitore. Si chiama speed dating dell'innovazione, l'idea nasce dagli incontri veloci che vanno di moda soprattutto soprattutto negli Stati Uniti, per cercare l'anima gemella, tanti incontri di pochi minuti. Emil Abirashid è l'organizzatore dei percorsi dell'innovazione di SMAU. Questo evento l'abbiamo già fatto l'anno scorso e ha avuto grande successo, nel senso che ha generato dei business importanti. 5 anni fa, quando ho fatto la prima edizione dei percorsi, che io uso un po' come anno zero, non c'era nulla di questo ecosistema, c'era molto poco. Oggi, dopo 5 anni, questo ecosistema è cresciuto moltissimo. È vero che in assoluto i numeri sono ancora contenuti, ma se vai a vedere il tasso di crescita è stato molto elevato, sia per numero di startup, sia per qualità dei progetti, sia per l'ecosistema degli investitori. Le startup presenti a SMAU quest'anno sono 89, oggi la premiazione delle più innovative. Enrico Pagliarini, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Milano. Si inaugura oggi a Palazzo Giacomelli ad Udine e apre da domani al pubblico il nuovo Museo Etnografico del Friuli, una nuova realtà culturale per la città ed il territorio. Il direttore dei Musei Civici di Udine, Marco Biscione, al microfono di Adriana Fracchia. Il Museo Etnografico del Friuli è una vecchia istituzione, era un museo che c'era ed è chiuso da più di 20 anni. Adesso il museo, più che riaprire, apre un nuovo museo, perché è un qualcosa di completamente diverso, una grandissima esposizione su 3 piani di un palazzo storico, circa 2000 gli oggetti esposti, con un allestimento molto gradevole e accattivante, con supporti audiovisivi, multimediali. Ma la cosa interessante di questo museo etnografico, che è un museo etnografico del territorio, in cui sono esposti oggetti molto belli, ma anche oggetti umili di uso comune, che però servono per raccontare una storia, raccontano la storia della cultura e delle popolazioni del Friuli. In più, non è un museo solo del passato, perché i temi affrontati nell'esposizione, dal rapporto col sacro, la cura del corpo, il lavoro quotidiano, sono temi che sono attuali anche nella società contemporanea. E poi questo museo speriamo che diventi uno dei riferimenti per la vita culturale della città. Ultima ora sull'università, prima di salutarvi. Fini ha detto: o si trovano i fondi oppure la riforma dell'università va ritirata. Era l'ultima notizia di questa edizione, grazie regia Fabio Cantadori. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.